Beh, c'è qualche aspetto positivo se si va a scavare fra i numeri e valutando nell'insieme cosa vuol dire, cosa dovrebbe voler dire fare impresa nel calcio. Ora si parla tanto di stadi di proprietà, sicuramente quello è un rimedio, anche se ovviamente per fare gli stadi servono i soldi e forse né, come dire, gli enti pubblici né le squadre hanno le risorse necessarie Sì. per investire, forse proprio solo la Juve, insomma, poteva farlo. Però è chiaro che quello deve essere, è necessario e fondamentale che si arrivi a quello. Però ci sono cose che le squadre possono fare molto, diciamo, con molti meno oneri. Allora, tra questi dati ce n'è uno, finanziario, mi perdonerai, si chiama EBITDA, che è un coefficiente, insomma, finanziario che punta su quello che è il risultato netto della gestione, quindi a netto degli ammortamenti, di oneri Sì. finanziari, cioè guarda quanto poi quel fare impresa può garantire. E sorprendentemente esce un dato positivo per cui ci sono quasi 260 milioni di attivo nella Serie A. Questo che vuol dire che con una gestione più attenta, con acquisti meno onerosi, con ingaggi magari spalmati e meno ampi di quelli che sono stati regalati ai calciatori di punta, si può creare un circolo virtuoso per portare il bilancio in zona positiva. E questo deve essere fatto ovviamente aumentando i ricavi. Ma aumentare i ricavi anche del 5-10% è assolutamente possibile. Per esempio sul piano del merchandising abbiamo detto quanto vale in Italia. In Italia il merchandising vale ora soltanto 77 milioni rispetto ai 190 della Liga Spagnola, ai 168 della Premier League, ai 130 della Bundesliga e ai 67 della Liga francese. C'è stato una crescita del 20% nell'ultimo biennio, ma è chiaro che, per esempio, su quel fronte si può fare molto, Si può fare. sfruttando per esempio i canali di internet, dei network, dei social network che sono utilizzatissimi all'estero. In particolare, però, quello che ritengo fondamentale è la cura dei vivai.